piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Si passano molte ore, non solo di guida, ma diciamo come impegno, perché si parte spesso la mattina presto, si arriva a casa spesso sera tardi, spesso si rimane a dormire fuori e si dorme ovviamente dentro il camion. I camion adesso sono confortevoli, c'è un riscaldamento, c'è la radio, si passa bene anche il tempo. Io poi sono appassionato di musica, ho sempre la chitarra in cabina, suono la chitarra, leggo libri, leggo riviste. Spesso i miei colleghi stanno ore e ore a parlare di camion, io mi metto a suonare in cabina e passo il mio tempo, diciamo, cercando di dargli un po' di costruttività. Chi mi ascolta in maniera abituale si ricorderà che noi non molto tempo fa abbiamo dedicato una nostra puntata al mondo dei camionisti. Ci interessava capire quello che è una fetta importante del pubblico della radio. Chi viaggia in camion ascolta molto la radio, ha tempo per ascoltare la radio, ha pensieri sufficientemente concentrati nel suo lavoro, ma ampiamente disponibili anche avere in sottofondo noi che mandiamo musica, non certo io, o che parliamo, cercando di non occupare più di tanto il cervello delle persone che ci ascoltano, in modo che possano anche fare altre cose mentre ci ascoltano. Quello che abbiamo scoperto in questo nostro primo incontro con gli ascoltatori camionisti è che in realtà nel mondo dei camionisti si svolgeva una sorta di laboratorio importante, interessante, probabilmente ancora non studiato e certificato, che ha preceduto, è stato predittivo, come una sorta di profezia, di quello che è avvenuto poi nel mondo più ampio della comunicazione di tutti gli esseri umani. I camionisti avevano un loro sistema interno, un loro network interno, era un strumento di aggregazione sociale, la categoria dei camionisti, che comunicavano attraverso i baracchini, attraverso i CB. A un certo punto, anche in questo tipo di comunicazione, si è creato il tracollo che è avvenuto nel mondo dei nuovi media, detti nuovi media, poi ormai esistono da quasi 30 anni, non c'hanno più niente di nuovo, ma nel campo del social networking, in realtà quello deve essere uno strumento di collegamento, di utilità, è diventato uno strumento di autoesaltazione. I camionisti hanno capito prima di noi, quelli che sono i limiti di questo tipo di comunicazione, poi loro sono scivolati in altre forme di comunicazione e tengono ancora la rete dei loro baracchini come, diciamo, un backup, un elemento accessorio, non è più centrale come prima, non è una loro caratteristica personale. Quindi, analizzando una categoria di persone che noi vediamo soltanto transitare nelle nostre autostrade senza porci il problema di chi sia, quale sia l'equazione umana di chi sta a bordo di quel camion, abbiamo capito qualcosa che probabilmente il mondo non aveva capito, che un gruppo omogeneo, aggregato, che si qualifica e si distingue per la motilità, per la non residenzialità fissa, quindi in continuo movimento, una massa in continuo movimento di esseri umani unificati da uno scopo comune, quello di percorrere le strade nella miglior maniera possibile, scambiandosi informazioni sui disagi, sui rischi, sui problemi di tipo meteorologico, avevano messo a punto il loro sistema di comunicazione. Un sistema di comunicazione chiuso loro, come un gruppo chiuso su Facebook, solo che erano soltanto i camionisti a usufruirne, hanno capito e hanno visto come molte volte certi sistemi possono dare dei problemi. Perché? Perché gli esseri umani poi devono conquistarsi le leadership, devono conquistarsi degli spazi, devono comunque anche nelle comuni aree di comunicazione ribadire e affermare la propria individualità. Oggi vorrei fare un passo avanti, vorrei continuare a chiamare camionisti, a parlare di camionisti, a parlare del mondo dei camion. Infatti prego agli amici che stanno ascoltando a bordo dei loro camion di chiamare subito l'800240024. Oggi do un tema diverso Oggi mi piacerebbe capire cosa c'era a monte dell'essere camionista, ammesso questa possa essere una categoria definita ed esclusiva dell'umanità. È anche uno stato di passaggio per molti. Molti fanno altre cose prima, poi diventano camionisti. Molti sono camionisti, poi a un certo punto scendono dal camion e fanno altre cose. Oggi cerco di capire e definire quelli che sono i momenti di passaggio. Faccio solo una nota per gli ascoltatori più affezionati, quelli che ci seguono nel gruppo di Telegram. Io mi ero interrotto la puntata precedente con la storia di un camionista che ha assunto dei toni quasi mitologici nel mondo degli ascoltatori, che aveva qualcosa da dire ma non ha fatto in tempo a dirlo perché è stato interrotto dalla sigla. L'abbiamo cercato, l'abbiamo visto se era possibile rintracciarlo, oggi non è disponibile. Quindi il paradosso di questo camionista che ci ha lasciato interrotto, il suo racconto, la precedente puntata, forse lo chiariremo in una successiva puntata sui camionisti. 800240024, camionisti in ascolto, siamo qui. Faccio di chilometri ed anche sogni erotici, ma sì. Siamo i bisonti della strada con i nostri tir, e siamo i maledetti quando entriamo al bar. Un viaggio, un'avventura per chi fa la vita dura come noi. E nelle notti fredde sogno un letto caldo dentro lei. Una donna libera da tanti inutili tabù. Lei senza convenevoli mi amerà, perché senza amore quanto amore dà, e lascia quel sorriso dove ingresso in paradiso non... Fa parte naturalmente dell'iconografia tradizionale, forse un po' trita, la canzone di Bobby Solo dedicata al camionista. Ma noi cerchiamo di allontanarci da questo stereotipo perché è cambiato notevolmente. Ci piace tutto legarci alle figure romantiche, ma forse piace un po' meno a chi guida i camion, che sono rimasti un po' prigionieri di questo grande pregiudizio, questo alone romantico, il camionista, questo essere che vive in una vita corsara, che conosce a menadito tutte le osterie, le trattorie, i luoghi dove si mangia bene, con un carnet di amori fugaci, inenarrabile, insomma è un po' cambiato. Mirko Guelfo, buongiorno. Sì, ti sento piano, dimmi. Mi senti? Tu sei a guida del tuo camion? Ti sento pianissimo, non riesco a sentire nulla. Questo è un bel problema, è un problema che dovrà risolvere questa radio, perché c'hai i telefoni soprattutto da questa, diciamo, punto romano, che danno qualche problema. Mi senti adesso un po' meglio? Un po' meglio, ma sempre un basso basso. Vabbè, lo so, spero che chi dovere mi senta capisca che ora magari di cambiare i libri di telefonici a questo studio, perché sai, lavorare con i telefoni così è un po' difficile. Allora, vediamo di capire. Parla te, ti faccio soltanto la domanda. Tu sono tanti anni che fai l'autista, però nasci con un'altra vocazione professionale. Basta vedere il tuo camion, mi hanno mandato le foto, è un camion che sembra un'opera d'arte, sembra quasi un affresco che cammina sulle ruote sulle autostrade. Cosa facevi prima? Quello, innanzitutto buongiorno a tutti, quello lì non è un mio camion, è stato un camion di un mio cliente. Io ho iniziato subito dopo il militare, cioè dopo la scuola d'arte ho fatto il militare, e avendo la passione del camion, visto che con le cose artistiche veniva difficile sopravvivere, mi sono orientato all'autista, a fare l'autotrasportatore, perché comunque era un'altra delle mie grandi passioni. Poi a un certo periodo, sono breve e conciso, ho abbandonato e ho provato a inoltrarmi, proprio a dedicare tutta la mia vita alle cose artistiche, e sono diventato un aerografista professionista nel 1992. Quindi tu facevi sì, diciamo la tua vocazione principale, fare l'artista. Diciamo che da ragazzino avevo già vinto dei concorsi. Ora poi artisti, si può essere artisti in tanti modi, secondo me in Italia ci sono tantissimi artisti non conosciuti. Il fatto che poi devi fare i conti con la realtà, cioè la sopravvivenza giornaliera, no? A fine mese le spese e l'affitto. Diciamo, hai capito che la vita dell'artista è romantica, è bohemienne, però in realtà non era proprio la maniera giusta per riuscire a mettere insieme il pranzo con la cena tutti i giorni. La scuola d'arte è una scuola, secondo il mio punto di vista, bellissima. Quando hai qualcosa dentro cerchi di sviluppare quello che ritieni sia giusto sviluppare nel tuo modo di essere e nei tuoi sogni. Con l'aerografia devo dire la verità che ho sopravvissuto. Naturalmente dietro l'aerografia c'è tutto un discorso di carrozzeria, perché poi sviluppi i lavori sui camion, sulle macchine, sulle moto e quant'altro, però non è una cosa facile avere un giro di lavoro di un certo livello per mantenere anche un po' il sistema italiano, perché insomma le tasse sono tante, le spese altrettanto, e quindi alla fine poi ho rincalzato di nuovo l'autista, perché comunque alla fine la vita è dura, ma la paga sicuramente è diversa. Ecco, come ti è venuta l'ispirazione di cambiare mestiere? Perché sai, il passaggio è abbastanza forte, abbastanza drastico, da uno che usa il pennello, l'aerografo, compone delle elaborazioni della realtà, poi metterti alla guida di un camion. Allora, innanzitutto ho dovuto abbandonare la società nel settore della carrozzeria, perché comunque le cose non andavano come dovevano essere, perché i soci sì, ma poi non è facile andare a cioè, ragionare insieme con altre persone quello che uno vorrebbe realizzare. Purtroppo a dispiacere sono ritornato a fare l'autista, perché comunque alla fine, ripeto, i soldi fanno la differenza. Come riesci a far convivere entrambe diciamo le necessità, quella di coltivare e soddisfare la vena artistica, e quindi vedo che adesso il terreno, la tua tavolozza sono i camion, e poi invece fare questo lavoro? Cosa stai facendo adesso? In particolare cosa stai trasportando? In questo momento sto trasportando un contenitore con merce congelata a destinazione magazzino cinese a Firenze, in totale. Stai trattando materia incandescente, lo sai, il mondo è in ansia per il coronavirus, non ti crea nessun problema questo, no? No, perché i contenitori arrivano già sigillati, comunque a livello portuale sono molto controllati, poi logicamente quello che c'è dentro purtroppo non è che noi possiamo sapere se ci sarà o meno il virus. Ma cosa sono? Ortaggi cinesi che vanno ai ristoranti cinesi, cosa sono? Mi sa che questa merce qua viene anche mangiata dagli italiani, secondo il mio punto di vista. Ecco, sono i ortaggi cinesi che vengono mangiati anche dagli italiani. Quindi vedrai che qualcuno va a mangiare nella cucina italiana, nella cucina cinese, o comunque penso al sushi, penso tutte queste cose un po'. Oddio, spero che il sushi non arrivi col tuo camion, perché sarebbe preoccupante. A volte sì. Ah, tu porti sushi congelato dentro? A volte sì. Perché quindi è un camion frigorifero praticamente. Esatto, il container frigorifero tenuto in temperatura da un secondo motore che genera corrente per tenere la temperatura del frigorifero a meno 18. Sto viaggiando a meno 18. Ah, cioè dietro del tuo camion c'è meno 18, tu nella tua cabina no, naturalmente. No, dentro il contenitore che ho praticamente dietro le mie spalle, cioè sul semirimorchio adibito al trasporto container. Va bene, tago intanto buon viaggio. Abbiamo già un altro camionista ascoltatore pronto in linea. Richiedo ancora agli altri di chiamare all'800240024. Oggi, come vedete, ci spostiamo alle vite personali, vite private dei camionisti. Come si arriva ad essere camionista? Come si passa da un'altra attività a quella di compiere ancora questa professione, che in sé può avere anche aspetti affascinanti, ma è una professione senz'altro dura, faticosa, che richiede impegno. Giuseppe, buongiorno, tu dove sei in questo momento? Pronto, buongiorno, io sono all'altezza di Bereguardo, sono partito dal porto di Genova, ho caricato soda caustica con la cisterna, ho il bilico e sto andando su a scaricare a Lecco. E niente, volevo dire che ormai sto lavoro qua è finito. Ormai. Finito, no, aspetta, tirati su un attimo, perché sennò cominciamo. Adesso facciamo la pausa un attimo, tu prendi un attimo fiato, dai un occhio alla tua soda caustica che è dietro e ti richiamo fra un istante e mi continui a fare il tuo racconto. Rock. 800240024, ci riprendiamo a raccontare storie dalla viva voce dei nostri ascoltatori che ascoltano e che chiamano dei loro camion. Oggi, rispetto a una puntata precedente in cui ci siamo cominciati a avvicinare con attenzione particolare al mondo dei camionisti, vorremmo capire le storie che c'erano prima della scelta di guidare un camion, oppure quelle che sono venute dopo, quando questa scelta è tracimata e sfociata in un'altra attività. Stiamo parlando con Giuseppe, che era alla guida con il suo carico di soda caustica. Giuseppe, ti sei un po' rasserenato, dicevi sto lavoro non si può fare più, perché non si può fare più? Ma perché è diventato, cioè devi sempre correre, tutta la settimana fuori, poi ma corri, magari poi arrivi in un'azienda e ti fanno stare 2, 3, 4 ore lì, aspettare di caricare o scaricare, è diventato un casino. Ma non è sempre stato così, perché cosa è cambiato ultimamente? Per capire, perché tutti i lavori devi correre, in tutti i lavori c'hai problemi con l'azienda per cui lavori, in tutti i lavori... Adesso è diventato troppo frenetico, secondo me. Io mi sembra strano che ancora questo non l'ha detto nessuno dei colleghi, perché quando si parla tra di noi siamo tutti d'accordo su questo, che siamo diventati carne da macello, però alla radio non l'ho sentito dire a nessuno. Però Giuseppe, lo sai, credimi, questo lo dice qualsiasi categoria professionale. Tu senti i giornalisti, io sento parlare i miei colleghi, senti i medici, senti gli architetti, gli ingegneri, sì. È un po' un luogo comune, tutte le categorie hanno l'impressione che le situazioni, le condizioni di lavoro peggiorino, che obiettivamente peggiora l'economia generale nel paese, ma anche nel mondo, cambia tutto e tutti si sentono... alcune zone di conforto non sono più percorribili, ma in particolare, ecco, nel tuo lavoro cos'è che... Tu cosa facevi prima di fare il camionista? Quando hai cominciato? Io ho 58 anni, appena ho finito il militare mio papà mi ha messo sul camion e sono sempre lì. Quindi una tradizione anni, di famiglia era? Sì, mio padre, mio fratello, il medio, fa camionista anche lui, però lui fa un lavoro che tutte le sere a casa e io invece tutta la settimana fuori. Dormire sul camion, farti la doccia in autogrill, mangiare qui a destra e a sinistra e stasera rientro a casa perché abito a Genova e stamattina sono arrivato alle 6 al porto. Alle 6 ero lì e sono uscito dal porto carico alle 10, no, cioè alle 11, sbaglio, alle 11, cioè 4 ore lì morte così. Noi abbiamo ora i tempi precisi, stabiliti che... ora dobbiamo fermarci. Quindi il problema è le realtà con cui ti interfacci non hanno le stesse urgenze che hai te, quindi ci mettono più tempo a caricare il camion e tu perdi tempo prezioso. Poi il porto di Genova, sai com'è, che non c'è posto, non sai dove mettere il camion, arrivi nei posti che ci stanno 10 camion, ce ne devi mettere 15-20, non sai come girare. Senti Giuseppe, ma tu hai del tempo, l'idea del tempo libero esiste nella tua vita? Occupare il tempo libero? No. No, perché io stasera arrivo a casa sicuramente dopo le 8, faccio una doccia, vado, mangio qualcosa, vado a dormire e domani mattina c'ho da fare qualche commissione, sì, mi resta mezzo sabato, la domenica, però la domenica sera a letto presto perché mi alzo alle 3 o alle 4 e comincia di nuovo un'altra settimana e... Ti capisco che la domenica non esiste, quando lunedì devi alzarti all'alba? Ma non esiste, no. Ho lavorato all'alba per anni io al giornale radio. Esatto. Quando devi alzarti all'alba non esiste, perché tu già al pomeriggio pensi che comunque il giorno dopo ti alza all'alba e quindi non fai più nulla, è vero. Comunque guarda, io ascolto sempre, 24 ore al giorno ascolto radio 24, tutti i programmi. Allora, io se tornassi indietro, ora come ora, non lo farei più sto lavoro assolutamente. Ecco ormai a 58 anni per quanto ti toccherà farlo ancora? Per quanti anni? E ora ci tolgono la patente del rimorchio a 77 anni mi sembra. E quindi ancora hai voglia, c'è una decina d'anni ancora da lavorare. Ancora 10, poi io a metà al momento in cui mi tolgono la patente del rimorchio mi fermerò perché c'è dei colleghi che magari continuano. Beh, a 67 a guidare solo la motrice, però io la motrice non voglio guidarla e quindi quando mi toglieranno la patente del rimorchio finirò. Te ne andrai con la canna da pesca, spero per te, finalmente avrai del tempo libero. Grazie Giuseppe. Sam, buongiorno, Sam. Sì, salve, salve signor Gianluca, tutto bene? Dove sei te? Io sì, abbastanza. Te dove sei? Sono a Dalmine, Autogrill di Dalmine. E cosa c'hai dentro il camion? Il camion è vuoto, sono andato stamattina a agganciarlo lì a Novara, dal terminal. Sì. E ho scaricato zona Pavia, adesso sto andando a caricare Bergamo. E cosa carichi, già lo sai? Plastica, roba di cavi che vanno in Inghilterra. Ecco, tu come sei diventato camionista, Sam? Io sono diventato camionista essendo che mi appassionava tanto. Sono entrato in Italia dal 94. Da dove vieni te? Da dove vieni? Io d'origine ho nazionalità italiana, sono dal Senegal. Tu sei originario del Senegal, adesso sei italiano. Italiano, sì. E qua anche i miei bambini, quattro figli, tutti italiani. Ma tu già eri camionista in Senegal o l'hai imparato? No, io in Senegal non ho mai guidato la macchina, signor Gianluca. Ah, davvero. La patente l'hai presa qua? L'ho presa qua a Busto Arsizio, sì. Vabbè, chiami Gianluca, è signor Gianluca. Il signore, è morto in croce una volta, basta. Dai. Come ride? No, perché, signor Gianluca, davvero, io ti ascolto sempre. Io sono attaccato a Radio 24. Quando ti sento, già anche quando vado a caricare, l'orario tuo, io lo lascio tutto e vengo a chiedere la radio. Già ti viene da ridere quando senti Mezzogiorno. Davvero, mi tiene troppo compagnia Sergio Gianluca, davvero. Raccontami un po', come sei diventata, come ti è venuta la scelta? Una scelta obbligata o l'hai detto un giorno? Perché lavoravo in fonderia, la fonderia sai che è troppo un po' faticoso, sai. Beh, oddio, caldo, sì. Man mano che facevo i turni. Tutte quelle colate da acciaio rovente, non è che sia proprio il male. Caldo, tutto bruciato, andavo lì, arrivavo a casa, tutto bruciato proprio. Come, a casa tutto bruciato? Davvero, già sono nero, ho fatto la battuta. Ah, era una battuta, nessuno se ne accorgeva. Tornavi a casa bruciato e nessuno se ne accorgeva. Arrivo a casa tutto proprio bruciato. Tu eri bruciato e ti dice a tua moglie: come stai bene oggi? Che bella cera. E tu è tutto bruciato in realtà. Infatti, niente, facevo i torni, poi man mano che facevo i torni avevo possibilità di andare a studiarla, erano 99. Sì. Niente, ho fatto la patente e poi dopo pian piano ho fatto piastrellista e dopo piastrellista mi sono messo a lavorare con lo In studio. Senegal cosa facevi in Senegal? Perché in Senegal studiavo l'università, ho fatto l'università in Senegal. Cosa studiavi? Parlo anche l'arabo, io parlo il marocchino. E cosa studiavi? Cosa studiavi in Senegal? Io studiavo, come si dice, in Arabia Saudita, l'arabo che in Arabia Saudita, diciamo, per diventare ingegnere proprio. Ah, ingegnere. Tu studiavi da ingegnere, diciamo, Da ingegnere, sì. E cosa ti ha spinto? Un motivo economico, sei spostato e pensato di andare in Italia? Un motivo economico, però eravamo cinque figli e niente, mio papà era un contadino, aveva cavalli, tutto quei robi lì, poi ha venduto tutto. Però era un contadino, però faceva studiare un figlio da ingegnere, diciamo, aveva una mente molto moderna. Sì. Molto moderno, però mio papà è uno importante giù, uno che lo conoscono tanti in Senegal. E che fa di importante? Di importante nel senso che riunisci tanti mucchi, agnelli, tutte quei robe lì e vai nei mercati a piazzarli. Ah, diciamo è un grossista di carne avicola, ecco. Per cui niente, dopo quando ho visto che le cose non andavano tanto bene, mi ho fatto. E tu come sei arrivato in Italia? Visto che sono arrivato in Francia, a Marsiglia, con il visto. Sì. Con il visto che ha fatto mio zio che vive in Francia. Come sì. Sono arrivato in Francia subito, ho visto che le cose non. Lì se non hai i documenti non ti tengono. Beh, certo, è chiaro. Mi sono preso il pullman, pian piano mi sono rientrato a 20.000 e rientrato in Italia. E ho fatto tanto sacrificio qua in Italia e ringrazio anche in Italia, mi ha dato tanto. Senti, sei sposato con chi? Con una tua connazionale o con un'italiana? È mia cugina, ho sposato con mia cugina che è già dal 2000 che l'ho sposato. Si dice anche in Senegal non c'è cosa più divina che sposarsi la cugina. No, qua non si usa, però giù là si fa. Già addirittura ti dico anche una cosa, da quando è nato già avevano messo il braccialetto mia mamma e la nonna. Quindi tu sei rimasto legato a una tua tradizione, diciamo, d'origine. Certo. Cioè tuo padre aveva già deciso, tu ti sposi la cugina, fa quello che vuoi. Io li vedevo, lui dall'84, sono andato proprio da quando è nato, proprio con il mio cavallo, poi da lì mi ha detto, ma guarda che con la bimba là, dopo dovrei sposarlo. Pian piano adesso. Alla fine è andata bene, com'è la cugina? Era carina, com'era? Sì, bella. Allora che vuoi di più? Che vuoi di più della vita? I tuoi figli che fanno? I miei figli sono nati qua, studiano qua e niente, siamo famiglia italiana. Siamo per loro cosa, no? cosa sogni per il futuro dei tuoi figli? Cosa vorresti per che facessi? Per il futuro, io volevo andare in Francia, siccome quando ho avuto la cittadinanza, loro già, cioè come Francia o francese, studiando in francese, con laurea e tutto quanto, ritornando giù avrai tanto di quel lavoro, nel senso sì. Andrà... Però vedo qua tanti ragazzi, miei amici che hanno dei figli lavoriati, poi quando sposano non trovano più, cioè perdono tutto lo studio che hanno fatto. Non... Sono costretti a fare lavori diciamo meno qualificanti rispetto meno a quello. Meno qualificati, certo, però sono studiati qua, nati qua, hanno... Senti, ma per i tuoi figli è già pronte delle cugine o loro potranno scegliersi la moglie? No, per io... Io li lascio scegliere. Loro si trovano anche in italiano da sposare, sposano. Ma volendo ce l'avresti sotto mano delle cugine pronte, sì? Insomma, ce ne parecchi di là. Vabbè, sceglieranno loro. Comunque hanno sempre una riserva. Loro, rispetto a altri ragazzi, sono più fortunati. Perché poi alla fine, male che vada, uno può sempre dare un'occhiata alla cugina che aspetta in serva, magari gli va bene come per te. Grazie Sam, ci fermiamo un istante, tra poco. Melog. Abbiamo trovato una parte di pubblico insospettabile. Un camionista senegalese ci sente tutti i giorni, si diverte un sacco ad ascoltarci, ascolta Radio 24. Mi piace che questa radio sia aperta a realtà che capillarmente è difficile cogliere se non in spazi specifici che si occupano comunque di questa categoria. Oggi troviamo delle forme di umanità che non sospettavamo al nostro ascolto. Il mondo sta cambiando radicalmente, al di là degli indicatori che leggiamo nell'euforia delle campagne elettorali. E noi che facciamo radio dobbiamo adeguarci, capire, comprendere, gettare i nostri terminali anche in questa porzione di umanità in cambiamento. E questo mi fa piacere. Adi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Lei dove si trova? Io sono a Bologna. A Bologna cosa trasporta? Trasporto olio. Olio? Con una cisterna, olio sfuso, raffinato. Lei com'è arrivato a guidare un camion? La vita mi ci ha portato così, per caso. Io ero partito, dovevo fare il maestro o il prof nel liceo, insegnare fisica. Dove questo? In Albania. Ah, tu vieni dall'Albania? Dall'Albania, sì. Quindi dovevi fare il professore in Albania, a un certo punto che è successo? Volevo fare nel lontano 89, ho iniziato all'università nella facoltà delle scienze naturali di Tirana. Sì. Poi con la caduta del muro di Berlino... È cambiato il mondo improvvisamente? Anche le mie prospettive, mi sono trovato poi in Italia a fare lavori, fare cameriere nei locali della Romagna, diciamo, inizialmente, cucina, cameriere, così... E diciamo il cambio di qualità quando è stato? Hai cominciato a prendere la patente? È stato perché io i primi anni facevo la stagione estiva e ho finito l'università. 97 poi avevo deciso di tornare definitivamente in Albania. C'è stata una specie di strana guerra civile in Albania nel 97. Sì, lo sappiamo. Sono ritornato in Italia cercando di stabilizzarmi per sempre in Italia, diciamo. Ho conosciuto una persona che era un ex camionista, mi ha detto guarda prendi le patenti, ti aiuto io, prenderai 6 milioni al mese, insomma un po' anche per i soldi mi ci sono messo. Comunque poi... ti ha cambiato la vita, ti sarai impegnato, hai studiato, hai preso la patente, però diciamo il problema del quotidiano così l'hai risolto facendo il camionista. Ma io problemi di soldi non ne ho avuti nella mia vita. Finché ho lavori certo. Altri problemi perché lontano dai affetti, dalla famiglia, dai figli, è difficile non vedere figli crescere. Ma la famiglia te sei fatta qua in Italia? Sì, io mi sono sposato poi nel 2000, nel 2001 ho avuto il primo figlio, poi nel 2010 ne ho avuto il secondo, e, insomma, nel 2003-2004 sono diventato cittadino italiano. Quindi se sei italiano, hai una famiglia in Italia, stai facendo il camionista, per te è il punto d'arrivo di una vita che inizia con studi universitari, con aspirazioni di altro tipo, ma la vita, la guerra, i cambi epocali che hanno attraversato la tua esistenza, ma ti hanno forse scelte sbagliate, perché è inutile mettere tutto. Ma sai, le scelte sbagliate è inutile piangerci sopra, ormai sono state fatte. Che vuoi fare di diverso? Che vuoi fare di diverso? No, a 50 anni è difficile cambiare. A 50 anni sei un ragazzino. Che vorresti fare? No, io oramai non ci penso neanche. Oramai, però 20 anni fa ci ho pensato, ma ti sposi, hai figli, ti sei abituato anche la famiglia a un certo reddito, non puoi da oggi a domani rinunciarti per rifare la scuola, per prendere parole sante, così i pensieri attraversano la mente non soltanto la tua e tante persone. A un certo punto uno sarebbe stanco di fare quello che fa, poi c'è ormai la famiglia si è abituata a questo regime di vita e dovresti farla cambiare a tutti. Susanna, buongiorno. Buongiorno. Susanna. Buongiorno Gianluca. Sì, sono qua, mi senti? Sì, dove sei? Va bene, sto in strada direzione Bologna. C'è un bel camion, c'hai? Un bel camion, quello sì. Bello, uno delle ultime. Da quanto fai la camionista te, Susanna? Io faccio la camionista di tantissimi anni. Più o meno? 30 anni. Vabbè, mica devi dire la tua età. 30 anni puoi aver cominciato da bambina, che vuol dire? Va bene, ho 60 anni. A 60 anni? Da dove vieni, sì. Susanna? Anche te, guarda, casualmente sono tutte persone che vengono da paesi lontani. Tu di dove sei? Io sono figlia di italiano. Sì. Però nata in Argentina. Sì. Ho fatto la camionista in Argentina tantissimi anni. Quindi sei nata proprio con la vocazione della camionista, non ci sono santi. Papà era camionista. Io, va bene, ho fatto tante altre cose. Non era nella mia mente di fare la camionista. Però il papà ti dice alla piccola Susanna, quando crescerai questo sarà il tuo camion, così. Il fatto che siamo quattro donne, pertanto quella che era più avvicinata alle macchine, tutto quanto, ero io. Dopo un'altra sorella che faceva l'autista di filobus. Ma c'è una famiglia, Susanna, oppure fa la camionista così a tempo pieno? Faccio camionista a tempo pieno. Che bello, la tua vita sul camion, sempre? Sì, io parto lunedì, rientro venerdì sera, sono da sola nel mio camion. E quando torni che fai? Vai a ballare? Cosa fai? Cosa fa la tua vita? Esco, mi trovo con le nipote, la famiglia, si fa... E quanto ancora la farai questa vita? Quanto la farai? Tu adesso hai 60 anni, quanti anni c'hai? No, io voglio già finire. Sei già stanco. E che fai dopo? E che fai? Va bene, mi piace stare fuori, giardino, piante. Vabbè, vorresti. C'hai un futuro di preoccuparti del tuo roseto, spero che possa farlo. L'ultimo, Francesco, è velocemente, in un minuto. Francesco, mi piace perché leggo già quello che tu facevi. Tu dici sei un artista che fa il camionista. Tantissimi anni fa, ero militare a Viterbo e un camionista mi diede un passaggio per andare a Brescia. E allora lui aveva sonno, era stanco, mi ha detto: vuoi guidare? Ecco, è un pazzo, come dai, piglia un militare di Viterbo e gli affida il camion. Sì. Vabbè. Era un signore di Bari che mi diede un passaggio davanti al casello di Orte. E tu hai guidato il camion fino a dove? Sì, ha detto sai guidare? Ho detto la macchina sì, il camion non l'ho mai guidato. Mi ha fatto vedere come si fa il cambio eccetera eccetera, e quindi l'ho portato fino a Milano, che lui andava all'Orto. Cioè, da Orte a Milano hai guidato abusivamente un camion? Sì. È una follia. Lui era stanco, era stravolto. Sì, stravolto lo immagino, sì. E quindi da allora hai detto: da qua non scenderò mai più? No, da allora ho preso la patente e tutto, poi ho trovato una ditta fantastica, perché facevo il Portogallo, andavo in Portogallo, sono andato in Iran, a Tabriz, in Turchia. Facevo, sì, ma perché sei artista? Levaci questo dubbio, sennò sarà il secondo camionista, sì, che non sapremo. Perché sei artista? Ma perché io ho studiato a Brera. Hai studiato a Brera, all'Accademia? E poi a un certo punto sono andato a Londra, ho fatto un concorso di disegno e l'ho vinto. Ho detto, porca miseria, allora posso piacere. Mi sono messo a dipingere i mari del nord e hanno avuto un successo micidiale. Qui tu vendi i tuoi quadri, sì. Una volta. Vabbè Francesco, questa sarà la seconda storia incompiuta del camionista. Faremo una terza puntata soltanto con le storie incompiute da camionista. Francesco ha incontrato un maestro zen nella arte marziale, la guida del camion. L'ha subito buttato a guidare il camion. Non poteva farlo, una cosa totalmente illecita, però gli ha aperto una strada. Lui è artista di Brera, è diventato camionista. Come, dove, quando e perché? Alla prossima puntata.